Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo chiaramente di quanto è accaduto meno di due ore fa, ossia le agenzie hanno battuto una dichiarazione molto importante che ha mosso tutti i mercati, in particolar modo Milano, del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, il quale ha confermato a domanda che la BCE è pronta ad acquistare anche titoli di Stato di alcuni paesi. E quindi il quantitative easing, lo stampaggio di moneta, è chiaro, siamo un po' approssimativi nella descrizione, ma questo è il significato. Acquistare debito di alcuni paesi significa fare, in sostanza, anche se con tutte le differenze del caso, quello che ha fatto la Federal Reserve per anni acquistando debito americano, o che ha fatto e continua a fare la banca centrale giapponese, ed è un'operazione su cui i tedeschi sono molto molto scettici, per essere buoni. La reazione è stata immediata, Piazza Affari guadagna quasi il 4% adesso, con tutti i titoli, devo dire, ovviamente in primo luogo bancari, e poi c'è la vicenda del Monte dei Paschi, che invece ha a che fare più con l'aumento di capitale chiesto dal Banco Santander che solo con Mario Draghi. Ma aumenti forti anche a Parigi, più 3,80%, Francoforte più 3,5%. Mentre Londra guadagna il 2% e l'America l'1,70%. L'euro è sceso anche sotto quota 1,18 nei confronti del dollaro, e siamo a un livello bassissimo che non si vedeva dal 2005, vado a memoria, per quello che riguarda l'euro, 1,1795. Dicevo i titoli: Monte dei Paschi più 13%. Ma al di là del Monte dei Paschi, la Popolare Emilia Romagna più 6,20, Intesa San Paolo più 5,80, Unicredit più 5,5, Banco Popolare più 5,30, Pop Milano più 5,15, UBI Banca più 5%. Molto bene anche Finmeccanica più 5,5%. E tra i non bancari Campari più 4,60 come Enel e A2A. Il 4,5 lo guadagna Autogrill, il 4% è il rialzo di ST Microelectronics, il 3,80 quello di Eni, il 3,60 quello di Mediaset e Telecom Italia. Il 3,40 invece lo guadagna Prismian. Chiudiamo con chi guadagna più del 3%, ossia Generali, Pirelli, Mediolanum, Fiat Chrysler e anche Luxottica. Di negativo c'è solo Jux, che ieri molto aveva guadagnato, perde il 2,21%. Questo è l'effetto, non dico immediato, ma sicuramente anche dei dati di ieri, che la Commissione Europea, a mio avviso, ci siamo permessi di commentare in maniera un po' superficiale, ha liquidato come non deflazione ma un'inflazione negativa. Questo è un gioco di parole, deflazione temporanea, insomma è un'inflazione negativa temporanea. Girala o rigirala, è chiaro, e l'abbiamo detto anche ieri, che il prezzo del petrolio, che ha perso quasi il 40%, porta la cosiddetta inflazione importata a scendere, e quindi l'inflazione che deriva dai prezzi del petrolio, delle materie prime e dei loro derivati. Ma se non vi fosse una stagnazione barra caduta dei consumi ormai nato da anni nelle principali economie europee, a eccezione fatta della Germania, e quindi Spagna, Francia, Italia, il dato del petrolio non avrebbe portato a un'inflazione negativa. Si va a un'inflazione, a una deflazione, perché già l'inflazione era intorno allo zero. Ieri abbiamo scoperto che nel 2014 la corsa, o meglio il rialzo dei prezzi al consumo dello 0,2% complessivo, è stato il più basso dal 1959 in Italia, e complessivamente l'area a 18, l'Europa a 18, è in calo dello 0,2% come prezzi nel mese di novembre. Ebbene, questo è un ulteriore elemento che fa ragionare, può spingere la Banca Centrale Europea a dire che in questo momento sul fronte, anche su quello che è l'obiettivo, unico obiettivo della BCE, ossia mantenere un'inflazione intorno al 2%, la BCE non ci sta riuscendo e deve ricorrere a nuove misure. In questo senso Mario Draghi, se usasse, e poi ne parleremo, l'obiettivo dell'inflazione come obiettivo per le sue misure, starebbe ancora dentro il suo mandato, cioè non potrebbe essere accusato di comprare debito e snaturare la funzione della Banca Centrale Europea, perché in effetti la Banca Centrale Europea ha come primo mandato il controllo dei prezzi dell'inflazione e quindi in questo caso, visto che si è in deflazione, starebbe operando all'interno del suo mandato. Di questo parleremo in apertura. Invece due vicende molto diverse, quella dell'ILVA di Taranto da un lato e le accuse con il Consiglio dei Ministri ormai famigerato con quello che è successo con la famosa manina del 24 dicembre di avere ammorbito troppo i vincoli e gli obblighi sull'impatto ambientale dell'ILVA, e invece quella positiva di Porto Marghera, perché oggi si è arrivati all'accordo che permetterà di investire 153 milioni di euro a Porto Marghera per riqualificare l'intera area. Il governatore Zai, l'accordo è sostanzialmente il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi Ministro Guidi e Regione Veneto. Il Ministero mette 103 milioni, la Regione Veneto 20 milioni, poi ci sono complessivamente in tutto, sono 153 milioni di euro per riqualificare un'area di cui da sempre si parla e su cui da sempre si fa molto poco, riqualificarla per permetterla di diventare e di restare un polo manifatturiero anche e soprattutto sul green, sulle tecnologie e la produzione verde, ma anche per attrarre nuove imprese. Il governatore Zaia stima ha ammesso, poi ce lo racconterà in diretta, di avere già richieste di insediamento per un totale di 2 miliardi di euro, quanto numero di imprese complessive. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms. Parleremo anche dell'accordo con la Svizzera, perché si avvicina la firma dell'accordo fiscale Italia-Svizzera. Da quanto emerge da alcune fonti del governo, ci sarebbero ancora alcuni dettagli da limare, ma l'accordo si dovrebbe siglare entro i termini previsti dalla voluntary disclosure, quindi 60 giorni dall'entrata in vigore, il 2 gennaio, cioè il 2 marzo, e potrebbe essere siglato già intorno al 15 di gennaio. Ne parleremo. Adesso le altre notizie in breve. In questo caso dal petrolio, che continua a scendere. Per quello che riguarda il WTI ha perso un altro 0,4%, ma insomma intorno ai $48 al barile. Le dichiarazioni di Mario Draghi: fra le misure della Banca Centrale Europea è possibile che vi sia l'acquisto di titoli di Stato, la valutazione verrà fatta agli inizi del 2015 dal consiglio direttivo. Poi Draghi ha anche aggiunto: i bilanci degli stati devono essere pro crescita, ma all'interno del patto dell'Unione Europea, e ha avvisato la Grecia. I finanziamenti, l'accesso delle banche greche ai fondi della Banca Centrale Europea potrà continuare solo a seguito di una conclusione positiva dell'attuale programma di salvataggio e di un successivo accordo con la Troica. Tradotto, se il futuro governo greco dovesse rompere gli accordi con la Troica e il rispetto delle riforme concordate appunto con la Troica, le banche greche non potranno più accedere ai prestiti della Banca Centrale Europea. Mentre la banca centrale inglese lascia i tassi di interesse invariati, oggi è arrivato un dato che indica una situazione di doppio passo in Germania. Allora, ieri la Germania ha avuto la disoccupazione più bassa, il minimo storico nella disoccupazione, mentre appunto l'Italia aveva il massimo storico sia nella disoccupazione normale che in quella giovanile. Oggi però gli ordinativi al settore manifatturiero tedesco sono scesi del 2,4% rispetto al mese prima e dell'1,5% rispetto a un anno prima. è quasi il doppio rispetto alle attese. È presto per dire se questo è già un segnale di un rallentamento dell'industria manifatturiera tedesca come conseguenza di un continuo rallentamento, anche a novembre, del ciclo economico in buona parte dell'area euro. Allora, qualcuno mi chiede: Draghi non ha detto che acquisterà titoli italiani? No, ma ci mancherebbe. Ha detto semplicemente che la BCE è pronta ad acquistare titoli di Stato. La Banca Centrale Europea, per essere precisi, potrebbe lanciare misure che includono anche l'acquisto di vari asset, inclusi i titoli di Stato sovrani. È ovvio che non può dire né Italia, né Portogallo, né Spagna, nulla. Però la reazione è abbastanza palese, insomma, dei mercati. Ancora, per quello che riguarda l'euro, vi aggiorno, sì, è a 1,18, ma non mi sembra una cosa così, è sempre lì, tra 1,17,90 e 1,18. All'euro è dedicato oggi il commento all'interno dei 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore in collaborazione con RDS, dei vice direttori del Sole 24 Ore. Oggi è la volta di Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Con le borse che tentano il rimbalzo, oggi è il rapporto tra euro e dollaro ad attirare l'attenzione. L'euro si è ulteriormente indebolito e stamattina è sceso sotto quota 1,17, livello che non si vedeva dal 2005. Solo pochi mesi fa la valuta americana era arrivata a cambiare 1,40. Insomma, la stagione del super euro si avvia a chiudersi e vedremo presto se comincerà quella del super dollaro. Anche oggi l'euro si è indebolito sulla scia dei dati sull'andamento dei prezzi in Europa, che a dicembre si è ritrovata in deflazione, cioè con l'indice dei prezzi sotto zero. E proprio il timore della deflazione, secondo gli analisti, spingerà la BCE a immettere liquidità nel sistema attraverso l'acquisto di titoli pubblici. Ora la nuova domanda riguarda l'eventualità che il cambio tra euro e dollaro sia avviato verso la parità, cosa che non ha accade da circa 12 anni. La risposta certo dipende da molti fattori, in particolare dipende dalla velocità con cui la Fed, la banca centrale americana, proseguirà il suo piano di allentamento della politica monetaria e per contro da quando sarà avviata e da quanto sarà incisiva la politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Vogliono sapere ma quanto l'euro è mai stato a meno di uno nel rapporto col dollaro? Sì, come no, mi ricordo io, adesso però non mi chiede la data, ma pochi mesi dopo l'introduzione, vado a memoria, sono passati un po' di anni, dell'introduzione dell'euro, il rapporto di cambio, su questo sono abbastanza sicuro, arrivò anche a 0,89, 0,90 nei confronti del dollaro, cioè non bastava un euro per comprare un dollaro. Nel caso specifico si viaggiò su quota 1,16, 1,17 per tutto il 2005, 2004, 2006 stava 1,21, poi il grosso picco arriva nel 2008 quando l'America inizia la sua politica di stampaggio di moneta, 2009 soprattutto, e lì si arriva a 1,55, 1,57 e poi 1,40 nel 2009 con oscillazioni, ci mancherebbe, però di nuovo poi 1,41, un livello sempre molto molto alto che è iniziato, pensate che ancora al 30 aprile del 2014, aprile-marzo 2014, l'euro stava ancora vicinissimo a 1,40, 1,38, 1,37 e poi è iniziata la discesa che l'ha portato ai livelli nel rapporto col dollaro più bassi da almeno il 2005. Ma ne parleremo dopo. Adesso invece la prima buona notizia, che riguarda, come dicevo, l'accordo per Porto Marghera, nel senso che cosa è successo? Si è firmato oggi un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, quindi il Ministro Federica Guidi, e Regione Veneto, per avere 153 milioni per riqualificare Porto Marghera. È presente anche il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. 103 milioni, dicevo, del Ministero, 20 milioni della Regione Veneto. Siamo in collegamento con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, buonasera. Buonasera e buonasera, grazie per l'ospitalità. Dunque, 153 milioni per riqualificare Porto Marghera. Chi vi parla conosce abbastanza bene quell'area, insomma. Possiamo dire che la vicenda di Porto Marghera inizia perlomeno a chiudersi. La riqualificazione di un'area altamente inquinata, molto criticata perché sorse dagli anni 30 in poi, ma insomma di fronte a Venezia, da molti definita però anche un'opportunità. C'è già una parte di ricerca scientifica che viene fatta nella zona di Marghera, e da più parti si dice: trasformiamo Marghera in un'opportunità, in un polo del futuro, non del passato. A cosa serviranno questi 153 milioni, e se possono essere l'inizio della fine, per, in senso positivo, per la vicenda Porto Marghera? Diciamo innanzitutto che si va verso la direzione di uno sdoganamento di quest'area, come diceva prima lei. Stiamo parlando di un intervento di 153 milioni che è rivolto a 23 interventi. Interventi importanti perché sono sul fronte della viabilità, del banchinamento di alcune aree portuali, del marginamento e della sicurezza idraulica. In sostanza ridare vivibilità a Porto Marghera, ma soprattutto dare una risposta alle tante imprese e agli 11.100 e oltre lavoratori che vi lavorano ancora oggi a Porto Marghera. Noi abbiamo sempre sostenuto che il futuro di Porto Marghera non fosse quello di farci un mega Luna Park o un mega campo da golf, ma la verità è che il manifatturiero di qualità e tutte le attività green e non inquinanti possono assolutamente avere una location che è unica al mondo. Allora, da sempre si dice che in Veneto, rispetto anche a altri modelli, non penso alla Lombardia, ma anche al Piemonte, manca un polo aggregante per le migliaia di imprese, spesso piccole, un polo aggregante che in Lombardia è la città metropolitana. In Piemonte anche, in Veneto questo manca, perché Venezia non ha la configurazione del vero polo aggregante come in altre regioni. Secondo lei che cosa dovrebbe diventare Porto Marghera? Perché questi soldi servono per, appunto, opere di viabilità, e dovrebbe restare la componente chimica a cui affiancare anche tutta la ricerca sul green, ma anche come polo di ricerca in cui mettere diciamo a fattor comune ricerche sviluppate e che possono interessare diverse tipi di imprese? Assolutamente sì, consideri che questo è uno degli accordi, ovviamente tra quelli più importanti, perché noi abbiamo anche in pancia, come si dice tecnicamente, l'acquisizione già fatta di 110 ettari di Eni, e quindi anche lì con un'operazione di bonifiche. L'idea è quella di avere un'area molto, molto competitiva e con un grande appeal imprenditoriale, unica per l'impresa, con una portualità d'eccezione. Quali saranno le attività? Saranno quelle di una rinazionalizzazione della manifattura, perché tale è il processo, lo stiamo già leggendo nelle dinamiche tedesche, ad esempio, che tornano a casa le manifatture perché la competizione internazionale non è più possibile con i costi del lavoro. Dall'altro, ovviamente, la possibilità di pensare a innovazione, a ricerca, a un grande polo che può far tesoro anche della storia ovviamente importante che ha avuto. Mi scusi Zaia, mi chiedono gli ascoltatori di essere più chiaro però su quello che farete con questi soldi. Allora, questi 153 milioni, quando si dice riqualificheremo Porto Marghera, prevedono, oltre alla parte di viabilità, anche la bonifica? Allora, in particolare prevedono 23 interventi. I blocchi di intervento sono la sicurezza idraulica e quindi la messa in sicurezza, tanto per citarne uno, del canale di Petroli o di Via Righi, di alcuni bacini, e quindi messa in sicurezza idraulica vuol dire anche certezza dal punto di vista ambientale. Dall'altro, l'altro grande blocco di interventi, sempre nei 23 interventi, il banchinamento di alcune aree portuali, tanto per fare anche qui un esempio, abbiamo un'area denominata 23 ettari a Fusina sulla quale andremo a intervenire, il banchinamento della sponda ovest del canale industriale e molto altro ancora, ed infine viabilità e accessibilità, che sono tutte ovviamente funzionali a fare in modo che Porto Marghera sia competitiva. Allora, lei citava gli investimenti possibili, se non ricordo male lei ha stimato in 2 miliardi come investimenti già pronti da parte delle imprese, anche lì noi più volte abbiamo raccolto in questi anni l'esigenza delle imprese del nord-est di avere un polo di ricerca e sviluppo appunto aggregante. Questi 2 miliardi sono già pronti, e cosa manca allora a farli arrivare concretamente? Ma guardi, innanzitutto sono 2 miliardi a costi zero, perché queste imprese, esiste una lista delle imprese, sono imprese disponibili a insediarsi a Porto Marghera e quindi su quelle aree, qualora le aree avessero delle procedure semplificate. Prova ne sia che in questi anni abbiamo chiuso accordi con i ministeri, lavorato con i diversi ministri per fare in modo che ci siano delle procedure speciali proprio per le aree di Porto Marghera, essendo Porto Marghera un sito di interesse nazionale e quindi avendo anche tutte le classificazioni. Del resto noi l'abbiamo anche fatto catalogare in maniera tale che Porto Marghera sia a livello nazionale anche un'area particolare anche sulla quale investire dal punto di vista imprenditoriale. Quindi questi 2 miliardi non sono altro che risorse private pronte ad essere investite proprio in virtù del fatto che noi abbiamo semplificato le procedure. Ma quindi arriveranno per essere concludere? Sì, sì, guardi, c'è già una lista di imprese con nomi e cognomi, si sono già chiusi gli accordi con il Ministero dell'Ambiente, quindi si va avanti con procedure semplificate, permettendo a queste imprese di avere velocità nella bonifica delle aree, perché dalla storia abbiamo ereditato anche aree molto inquinate, questo dobbiamo dire, pensando. Ma che quanto non ci vorrà secondo lei per bonificare definitivamente l'area di Porto Marghera e quindi renderla appetibile per creare appunto un nuovo centro di sviluppo, di ricerca e anche di imprese che producono? Guardi, è la stessa domanda che ho fatto anch'io ai tecnici, un pronti e via vuol dire 2-3 anni presa che c'entra, e direi che sarebbe un bel successo visto considerato che in Veneto si parla da decenni di queste bonifiche e non si sono mai fatte. E per concludere, lei questo Porto Marghera fra 3 anni, 4 anni, 5 anni, non so se sarà ancora governatore, ci sono le elezioni in Veneto, ma diciamo da Veneto, da cittadino italiano, come se lo immagina? Ma guardi, da Veneto me lo immagino, innanzitutto non il the day after spopolato dove le imprese, dove le fabbriche o meglio i capannoni implodono su se stessi. Mi immagino ancora una forza lavoro importante, perché c'è 11.117 lavoratori, non sono pochi, ma la volontà anche di pensare che sia un'area che non sia più ricordata come un'area di inquinamento e di distruzione ambientale, ma che sia un'area invece di produzione, di occupazione giovanile, dove tutto quello che si produce sia green, sia pulito, anche come esempio a livello internazionale. Grazie, grazie al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Grazie a lei, buonasera. Complimenti appunto anche al Ministero dello Sviluppo Economico, come diciamo abbiamo cercato anche il Ministro Guidi, ma aveva degli impegni istituzionali. No, non condivido le critiche di alcuni su Porto Marghera. Una volta che c'è un accordo in cui questi soldi vengono destinati a bonificare, avete ascoltato, adesso non siamo, io non sono un tecnico, ma insomma sulla parte logistica, portuale, è un passo ulteriore per rendere l'area attrezzabile. Cos'è Porto Marghera non lo posso spiegare in pochi minuti, ma chiunque di voi vada a Venezia e vede cos'è Porto Marghera capisce che una soluzione andava trovata. Non voglio spingermi oltre. A chi mi chiede se non era meglio fare il parco giochi, il campo da golf, no, mi sono dell'idea che un'area già a forte intensità manifatturiera possa essere riqualificata, ma sempre in un'ottica manifatturiera. Un campo da golf c'è spazio, e anche il parco giochi. Facciamo un lavoro serio, mettiamo a fatto il comune magari i laboratori di ricerca, ci sono già, ripeto, in quella parte della provincia di Venezia, ci sono già laboratori di ricerca, ma mettiamo a fatto il comune laboratori di ricerca, magari in accordo anche con la Ca' Foscari, con l'Università di Venezia, che diano alle piccole imprese del nord-est quello che a loro manca, e cioè i soldi, la massa critica per fare delle volte ricerca che richiede tempo, accantonamenti, ha dei costi, e quindi li renda in grado anche di competere, di avvantaggiarsi, per quello manca. Il campo da golf, con tutto il rispetto per chi gioca a golf, no. Poi la pallina finisce in acqua, come vai a riprendere? Vabbè. E invece, da un esempio, da una notizia positiva, passiamo a una notizia che ha lasciato perplessi non solo noi, ma molti osservatori. Mi riferisco all'Ilva. Che cosa è successo? Lo ricorderete? Nel Consiglio dei Ministri del 24 dicembre il governo, come ampiamente anticipato, ha deciso, con un'operazione anche interessante, va detto, cioè di far entrare la Cassa Depositi e Prestiti dentro l'Ilva. C'è un problema che riguarda invece le tempistiche, perché le associazioni ambientaliste e i comitati dei cittadini di Taranto, nel decreto salva Ilva, hanno varato appunto alla vigilia di Natale, hanno criticato le disposizioni in materia di tutela ambientale. Il testo prevede infatti che il risanamento ambientale dell'area possa considerarsi attuato se entro il prossimo 31 luglio saranno attuate l'80% delle misure richieste all'attuazione all'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. Le tempistiche per realizzare l'altro 20% restano da definire con un successivo provvedimento, per il quale però non è stata fissata ancora scadenza. Siamo in collegamento con Taranto, dove c'è il nostro Domenico Palmiotti. Buonasera Domenico. Buonasera, buonasera. Ti chiedo ancora tre minuti di pazienza, o il metro, la pubblicità, poi ci racconti che cosa preoccupa, perché letta così c'è un 80% da fare entro marzo, e poi entro il 31 luglio, e poi un 20% da completarsi, ma si sono un po' inalberati tutti. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Devo rispondere un paio di messaggi, poi torniamo sull'Ilva di Taranto. Mi scrive un ascoltatore, Fabio da Marostica: Barisoni, se lo vuole mettere dentro la zucca che il manifatturiero non ha futuro se non è di alta gamma, invece bisognerebbe rilanciare il turismo perennemente bistrattato, i soldi verrebbero in Italia da soli. A parte il fatto che molti di voi pensano che invece occorrono manifattura e fabbriche ad alta intensità di prodotto, no, non sono d'accordo per nulla, nel senso che non si può prospettare neanche a questo paese, che ha la seconda manifattura d'Europa e il secondo export d'Europa, solo l'impresa del lusso di gamma. È certo che quella è importante, abbiamo visto che stanno anche rientrando, però attenzione, cosa facciamo delle migliaia, delle decine di migliaia di piccole e medie imprese di questo paese? Gli chiediamo a loro di mettersi in rete, diffondersi, di aumentare i capitali se riescono, di fare più ricerca, di smetterla di litigare, di stare più attenti ai passaggi generazionali, a non mettere i figli in azienda se i figli sono mona, tutto quello che vogliamo, però non è che possiamo dire basta, finita, tu non hai più senso, solo turismo. E come cosa trasformiamo l'Italia? In un grandissimo, diciamo così, parco dei divertimenti? È certo che il turismo è una risorsa, a parte il fatto che per come lo trattiamo bisogna anche saperla sfruttare, ma le due cose vanno assieme. Tu puoi avere una bellissima industria manifatturiera e puoi avere anche il turismo, cioè ce lo insegna la Francia, ce lo insegna la Svizzera, non è che... e puoi esportare alimenti e made in Italy e avere una grossissima manifattura. La Germania esporta come agroalimentare il doppio rispetto all'Italia, la Germania, per cui non è Ok, vedo altri messaggi. Allora, io resto dell'idea che invece quella di Porto Marghera sia una piccola buona notizia. Non si può sempre dire utopia, no. Bonificate, fate le banchine, fate la parte logistica e trasformatele in un polo d'aggregazione di ricerca. Insomma, guardate come è andata a finire il chilometro zero della Brembo, va bene, cioè, serve quella roba lì in un'area parcellizzata, frammentata come è il nord-est, e che non è più un modello come era negli anni 80, perché anche quel modello è andato in crisi. Vabbè, veniamo all'Ilva di Taranto. Devo dire che noi personalmente ci siamo messi d'accordo, caro Palmiotti, nell'ingresso della Cassa Depositi e Prestiti, seppur momentaneo, se doveva essere svenduta l'Ilva agli indiani di ArcelorMittal, che non ci hanno pensato due volte quando hanno dovuto chiudere le acciaierie in Francia. Quindi insomma, venderla a costo zero con il rischio che poi questi la chiudessero non ci faceva impazzire. Meglio una temporanea, chiamiamola così, nazionalizzazione. Che cos'è che sta facendo imbufalire i cittadini di Taranto e l'associazione ambientalista? Beh, buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Fa imbufalire, diciamo, alcuni punti del decreto che rimangono ancora incerti, ambigui. Il primo punto riguarda le prescrizioni dell'AIA. Praticamente il decreto dice che l'80% delle prescrizioni dell'AIA deve essere adottato entro luglio di quest'anno, poi lascia un 20% ad un successivo provvedimento che dovrà emanare il Presidente del Consiglio. Si tratta però di capire cosa c'è nell'80% e cosa c'è nel 20%, perché questo non è chiaro e questo non lo ha detto nessuno. La paura è che le prescrizioni più importanti, quelle di maggior impatto, vadano a finire in questo 20%, per il quale probabilmente i tempi si allungheranno. E quando si parla di prescrizioni che possono allungarsi sotto il profilo temporale, si pensa soprattutto alla copertura dei parchi minerali, che è l'intervento simbolo di tutta l'AIA, cioè quell'intervento che servirà ad evitare... Mettere i teloni sopra i cubi... No, più che i teloni sono delle grandi coperture, con delle strutture... fatte apposta, strutture molto grandi che saranno alte 70-80 metri e avranno un'estensione significativa, per evitare appunto che nella movimentazione delle materie prime, parliamo dei minerali, parliamo dei fossili, parliamo del carbone, questa movimentazione crei spolverio e vada a finire sulle case del rione Tamburi, inquini la vita dei cittadini, deturpi i parchi, le facciate degli stabili. Quindi queste coperture sono opere molto grandi, che vanno anche in deroga rispetto agli strumenti urbanistici di Taranto, e sono opere che richiedono tempo e soldi. Quindi la paura della città è che queste opere, la realizzazione di queste opere, venga dilazionata ulteriormente, quando invece queste opere, come dicevo prima, sono ritenute l'intervento simbolo dell'AIA. Francamente io non credo che queste opere non si faranno, probabilmente i tempi saranno rivisti, ma non credo che le opere saranno messe in discussione, proprio perché le conferenze per il rilascio della via dei parchi più grandi, parco fossili e parco minerali, si sono chiuse qualche settimana fa con esito positivo. Adesso si attende il decreto del ministro dell'ambiente, il decreto del ministro che autorizza i lavori, e nel frattempo l'ILVA ha già pagato al comune di Taranto oltre 500.000 euro di oneri concessori, di oneri urbanistici concessori, che sono praticamente quei soldi che vanno versati perché poi il comune dia la licenza, no, edilizia, perché l'opera si faccia. Comunque diciamo che le preoccupazioni della città riguardano i tempi, cioè i tempi dell'AIA sono stati già rivisti più e più volte, e questo ha ovviamente infastidito i cittadini, li ha preoccupati. Adesso i tempi venissero nuovamente allungati di molto, questo creerebbe ulteriormente qualche problema, più di qualche problema. E questo quindi è il 20% restante che spaventa molto i cittadini. Tra l'altro c'è un dubbio anche sui 2 miliardi per c'è chi ha denunciato che, leggendo in lungo e in largo il testo del decreto, non si trovi neppure un numero relativo agli stanziamenti, e quindi si chiedono alcuni ascoltatori e alcune associazioni dove sono i 2 miliardi per l'ILVA e per Taranto. Però anche perché nell'articolo 5,3 del decreto c'è scritto che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, però in realtà il timore è più che in quel 20%, se ho ben capito Domenico, resti il grosso della messa in sicurezza ambientale, certo, dell'ILVA. Certo. Non solo questo, ma c'è anche poi un altro punto, che un comma del decreto prevede la non punibilità del commissario straordinario e dei suoi delegati nell'attuazione del piano ambientale, cioè se, dice il sesto comma dell'articolo 2, se il commissario e i suoi delegati rispettano le prescrizioni del piano ambientale, quello che è stato già approvato a marzo scorso dal governo, bene, questo equivale ad una non punibilità dal punto di vista penale. Una presa di posizione, una sottolineatura del decreto questo, che ha già creato anche qui proteste. Proprio oggi Michele Emiliano, candidato per centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, ha definito incostituzionale questo punto, come un aspetto per nulla digeribile e sul quale il centrosinistra promette di dare battaglia. Quindi anche questo è un altro punto che suscita proteste e suscita dubbi. Grazie Domenico Palmiotti, grazie, in collegamento con noi da Taranto. adesso iniziamo una lunga pagina di finanza, intesa sia come borsa che come banca centrale europea, che poi è il motivo per cui la borsa è salita così tanto nelle ultime due ore. Chiusura più 3,70% per Milano, più 3,60% per Parigi, più 3,30% per Francoforte, e invece Londra più 2,40%, l'America più 1,60%. Ma finanza anche intesa come fisco, ossia il fatto che si stia arrivando di fatto all'accordo fiscale Italia-Svizzera. Allora, la borsa, dicevamo, e poi parleremo anche della vicenda Monte dei Paschi, dopo le parole di Mario Draghi, Intesa San Paolo più 5,52%, Banca Popolare più 5,13%, Pop Emilia Romagna più 5%, Mediobanca più 4,90%, Unicredit più 4,80% e Ubibanca più 4,25% di Mario Draghi, ma anche del Monte dei Paschi. Parleremo dopo in appositi approfondimenti, quindi ringrazio Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. Al di là delle banche del Monte dei Paschi, andiamo su altri titoli che hanno che si sono mossi, ma non per Draghi o per il Santander. Telecom Italia più 2,80%. Telecom Italia infatti si è tenuto nel pomeriggio, si è concluso da poco l'incontro tra il numero uno Marco Patuano e il numero uno invece del fondo F2I, che detiene la quota di maggioranza di Metroweb, società nelle mire della stessa Telecom Italia. Quindi ovviamente il mercato era molto attento a eventuali novità che potessero uscire sul dossier di Metroweb, una società, ricordiamo, che è attiva nella fibra ottica e si propone di portare la fibra ottica alle case degli italiani, società che è nelle mire tanto di Telecom Italia quanto anche di Vodafone. La partita è molto grossa, seguita da vicino anche dal governo, se non altro anche perché la restante quota del 46% circa è nelle mani del fondo strategico italiano, che ricordiamo fa capo poi alla Cassa Depositi e Prestiti. Ancora per quello che riguarda i titoli, oggi si è messa in evidenza anche Campari tra i non appunto bancari, più 4,12%. Sì, in questo caso non sono i brindisi di Natale, ma è piuttosto uno studio, diciamo, a spingere in alto le quotazioni della società. Nomura ha riacceso i riflettori su Campari, e quindi sin dalle prime battute i titoli si sono messi in evidenza, soprattutto perché gli analisti hanno indicato che l'azienda potrebbe vantare dei conti in crescita sia a livello di fatturato che a livello di margine negli anni venturi, viste e considerate le scelte dei manager, che sono ad esempio quelle di cessare la vendita di vini o bibite che alla fine portano bassi margini, invece di incrementare proprio le bibite che hanno margini più generosi. Bene, oggi anche Finmeccanica. Ieri, diciamo, nella giornata molto convulsa, non abbiamo dato la notizia di 4 contratti firmati da Finmeccanica, tra cui uno ai russi di Rosneft. Esatto, 4 contratti che complessivamente portano nelle casse dell'azienda 2,5 miliardi, solo quello con Rosneft non è stato detto di quanto dovrebbe essere, ma secondo gli analisti potrebbe essere attorno a 2 miliardi di euro, e si tratta appunto di una fornitura di elicotteri, e quindi questo è andato a spingere in alto le azioni, oltre che le nuove indiscrezioni di stampa di cui ormai si parla da settimane, che l'azienda dovrebbe essere alle battute finali sulla cessione degli asset dei trasporti. Ancora andiamo su Mediolanum. Ieri aveva fatto notizia per via del ricorso delle gare di Fininvest all'obbligo chiesto alla Banca d'Italia di cedere la quota superiore al 9% detenuto in Mediolanum. Oggi il titolo? Oggi il titolo questa mattina si era messo un po' in evidenza, poi in verità ha chiuso in progresso, ma è andato peggio della borsa, ha registrato un rialzo del 2,7%, c'è un po' di cautela visto che non è ben chiaro quello che succederà su Mediolanum, infatti l'impugnazione da parte di Silvio Berlusconi delle indicazioni di Banca Italia ribalta un po' la partita, è tutto da vedere, bisognerà capire se se comunque si procederà verso la cessione oppure quali saranno le soluzioni, anche se di recente nelle scorse settimane Ennio Doris ha più volte rassicurato che in ogni caso le azioni non saranno sicuramente vendute sul mercato. Allora, migliore e peggiore, negativo solo Jux, ma ieri era cresciuto a meno 1,97%, il migliore in assoluto Monte dei Paschi, di cui parliamo tra un minuto, più 12,40%, poi Sert, pagine gialle, più 8,30%, la Cassa di Risparmio di Genova più 8,25%, continuano le attese per le eventuali mosse di Andrea Bonomi e anche rivolta alla Pop Milano. Da inizio anno la Cassa di Risparmio di Genova ha guadagnato il 20%, e ancora Aeroporto Firenze più 6,40%. BB Biotech più 6,30% e Piaggio più 5,20%, negativo AF meno 6,80%, Amplifon meno 5,30%, TAS meno 4,70%. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Allora, il sogno di oggi è molto più modesto rispetto ai sogni degli ultimi mesi, ma è la speranza di non parlare più del Monte dei Paschi di Siena. So che ci vorrà del tempo, so che dopo la bocciatura degli stress test sono alla ricerca spasmodica di come fare un aumento di capitale che vale più del capitale e della capitalizzazione, scusatemi, della banca. Però oggi ne parliamo in positivo, ma ne parliamo su due fronti. Uno è l'effetto Mario Draghi sulle titoli bancari, poi ci arriviamo. L'altro è il Banco Santander. Ora, questo è un rapporto da diverse sfumature di grigio, quello tra Santander e Monte dei Paschi, perché, voglio dire, Santander rifilò, possiamo dirlo adesso visti i prezzi di mercato, rifilò al Monte dei Paschi in quell'operazione che, diciamo, non fu la causa ma fu l'inizio della fine per la gestione Mussari & Company, e quindi l'acquisto a prezzo d'oro con tutto l'insieme di operazioni al vaglio della magistratura di Anton Veneta dal Santander, e anche lì l'accusa è che in realtà ci fosse un accordo sotto banco per ottenere delle percentuali nell'acquistare a quel livello di prezzo la banca Anton Veneta. E adesso il Santander, con un certo punto sadismo, viene citato come il possibile salvatore del Monte dei Paschi di Siena. Il Santander è un colosso bancario, col Banco di Bilbao e Vizcaya sono le due banche più grandi in Spagna e tra le due principali banche a livello europeo. Lancerà un aumento di capitale fino a 7 miliardi e mezzo di euro, quindi cerca risorse per fino a 7 miliardi e mezzo di euro, che sono quasi il 10% del suo capitale sociale, collocando in maniera accelerata nuove azioni, cercando compratori per queste azioni. La domanda del mercato, se ho ben capito, è che se ne fa il Santander di 7 miliardi e mezzo di euro? E a rispondere a questa domanda c'è Marco Ferrando. Buonasera, adesso le 24 ore. Buonasera. Che se ne fa il Banco Santander? O ha veramente un senso di colpa ancora per aver rifilato nel maggio? Rifilato, attenzione, tu rifili se sei qualcuno che compra. Allora, siccome il gruppo Mussari non può essere accusato di essere così naif, evidentemente c'era qualche interesse, più o meno lecito, su questo indagano i PM, ad acquistare Anton Veneta. Però nel maggio del 2008... Monte dei Paschi rileva Banca Anton Veneta dal gruppo Santander, sono 1000 filiali, pagando 10 miliardi di euro a fronte di un valore patrimoniale dell'istituto di 2 miliardi e 3 e garantendo un guadagno al Santander di 2 miliardi di euro. Ecco perché i magistrati dicono: fateci capire se in questo accordo completamente svantaggioso per gli azionisti del Monte dei Paschi ma vantaggiosissimo per il Santander, i manager del Monte dei Paschi, a partire da Mussari, non abbiano avuto un interesse economico, che si chiama in questo caso, non è solo la banda del 5% sulle operazioni, qui si andrebbe a un'operazione, diciamo, alla madre di tutte le operazioni. Però che vuol fare Marco Ferrando del Santander di questi soldi? Ma premesso che ci piacerebbe saperlo a noi, non solo a noi, perché oggettivamente il mercato è rimasto abbastanza spiazzato da questo annuncio. Diciamo che per ritornare su Siena, oggi è accaduta una correlazione abbastanza curiosa, nel senso che nel momento in cui Santander a sorpresa, come dicevamo, ha annunciato questo maxi aumento, improvvisamente, dopo un attimo di incertezza, anche la quotazione del Monte si è impennata, chiudendo, come dicevi, a più 12%. Evidentemente più di uno ritiene che il Santander possa varare questa operazione per avere il cosiddetto fieno in cascina da utilizzare sul mercato. Ma cos'è, un senso di colpa per avere guadagnato troppo, vuole ridare in maniera cristiana o socialista, ridistribuire un po' di soldi? Dubito che, insomma, conoscendo Santander, questo sia l'obiettivo finale, allora? Ma la famiglia Botin non è nota per essere una famiglia di benefattori, quindi no, difficilmente... Neanche all'interno della famiglia stessa. Esatto, quindi difficilmente è il senso di colpa. Diciamo che sicuramente ci sono alcuni punti di domanda a cui magari già in serata, alla fine di questo CDA, la banca proverà a rispondere, perché non dimentichiamo che da un lato Santander era uscito come una delle banche più forti dall'esame della BCE, di cui abbiamo parlato mille volte, però è anche vero che sui requisiti patrimoniali c'era qualche come dire, inquietudine da parte del mercato. Come sappiamo, tra Common Equity Tier 1, Core Tier 1, insomma è facile confondersi, e negli ultimi giorni c'era qualche analista che cominciava a dire: ma non siamo così convinti del Santander, tanto è vero che c'è chi ritiene che oggettivamente potrebbe averne bisogno di quei soldi, e quindi forse il fieno in cascina potrebbe essere addirittura per sé. Sì, al che vorrebbe dire però che oggi molti hanno preso una grandissima cantonata, perché far salire il titolo del 12-40% quando mediamente le banche si sono avvantaggiate delle parole di Mario Draghi, ma intorno al 5%, che è il massimo di Intesa San Paolo, il 5,5%, appunto il 5 del Banco Popolare, il 5 della Pop Emilia Romagna, i 4 ottate di Unicredito, cioè vuol dire Monte dei Paschi oggi ha un 7% in più di crescita, a essere buoni, dovuto all'ipotesi di Santander. Beh, insomma, bisogna stare attenti, perché se c'è ancora molto incertezza. Faccio notare che il Santander è la prima banca spagnola e capitalizza circa 73 miliardi di euro, per cui non ha un problema, e ha controllo, è presente in America Latina, in Inghilterra, ha acquisito nel 2004 la AB National, se non ricordo male, e poi Germania, Portogallo, Polonia e Stati Uniti, ha 182.000 addetti. Sì, e non è tra l'altro nuova operazione di questo tipo, perché già nel 2008, se ricordo bene, fece un aumento da oltre 7 miliardi. Per noi 7 miliardi oggettivamente è un aumento extra large, per loro diciamo che ci sono abituati. Sì, sì, tra l'altro alcuni mi scrivono: non si vergogna dire tangenti, i PM hanno gli 8 bonifici. Sì, qui andiamo sull'inchiesta della ipotesi di maxi tangente per Anton Veneta. E poi ti chiedi fino a quando parleremo del Monte. E poi mi chiedo fino a quando parleremo del Monte. Sì, finché non arrivano le richieste di invio a giudizio complessive e anche a questo punto le sentenze. Intanto grazie a Marco Ferrando del Sole 24 Ore. Alle 18:06 riprende Focus Economia. Allora, dicevamo che al di là della vicenda Monte dei Paschi, tutta la borsa milanese oggi e quella europea in generale hanno conosciuto dei rialzi, soprattutto nelle ultime due ore prima della chiusura, quando ha parlato Mario Draghi. Cosa ha detto Mario Draghi? Ha detto la banca centrale, in risposta all'interrogazione di un europarlamentare, ha detto la banca centrale europea tornerà all'inizio dell'anno a valutare lo stimolo monetario fornito nella seconda parte del 2014, e fin qua va bene, e se servirà potrebbe lanciare misure che includono l'acquisto di vari asset, inclusi i titoli di Stato sovrani. Si sono infiammati tutti i titoli bancari, come ricordavamo. Siamo in collegamento con il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, Alessandro Merli. Buonasera. Sì, buonasera. Alessandro, quanto ha pesato il dato di ieri sulla deflazione? Ieri, come ricordavamo, abbiamo scoperto che per la prima volta dal per la prima volta da 5 anni l'intera Europa 18 ha visto il segno meno sui prezzi, prezzi meno 0,2%, il livello più basso da settembre del 2009. Si è mosso su questo o comunque diciamo, è stato semplicemente un elemento in più? Questo è un elemento molto importante. Teniamo conto che queste frasi di Draghi, riprese oggi dalle agenzie, fanno parte di una risposta a lettere degli europarlamentari che sono state inviate 2 mesi fa e alle quali Draghi ha risposto prima della pubblicazione di questo dato sull'inflazione negativa. Quindi diciamo che a volte le borse hanno bisogno di una buona scusa per fare un rialzo o un ribasso. Non c'è assolutamente niente di nuovo in queste dichiarazioni di Draghi, salvo che oggi, dopo appunto i dati di ieri, le borse cercavano una buona giustificazione per un rialzo, in quanto dopo il dato di ieri appare molto chiaro che è difficile che la BCE possa esimersi dal fare il cosiddetto quantitative easing, cioè dall'acquistare titoli di Stato, cosa che appunto peraltro Draghi aveva già detto in moltissime occasioni. Che è quello che ha fatto la banca. Però le condizioni erano favorevoli per un rialzo delle borse. Che è quello che ha fatto la Banca Centrale Americana per anni e adesso ha smesso di fare perché l'economia va bene, ed è il modo in cui di fatto ha stampato dollari e nel caso dell'Europa verrebbe messa liquidità. C'è chi dice, Alessandro, che in realtà Draghi potrebbe usare questo argomento per non essere ripreso dalla Germania, da Schäuble, da Weidmann. E cioè la Banca Centrale Europea, a differenza delle grandi banche centrali del resto del mondo, non ha come obiettivo, penso alla Federal Reserve, la crescita economica e l'occupazione. Ha un unico obiettivo, detto in maniera molto chiara, che è di matrice tedesca, poi dovremmo andare indietro alla Repubblica di Weimar e quant'altro, che è il controllo dell'inflazione. Questo però può essere letto nel doppio senso di tenere a bada l'inflazione, che non vada oltre il 2-2,5%, ma anche nel senso di tenere l'inflazione verso il 2%. Quindi Draghi, secondo te, potrebbe sostenere che lui sta operando esattamente all'interno del suo mandato, cioè controllo dell'inflazione, perché la deflazione è comunque un problema, quindi non sta uscendo dal suo mandato? Mi rendo conto che è quasi una questione, diciamo, formale, però potrebbe essere un argomento di forza nei confronti dei tedeschi. Sì, no, non è affatto una questione formale, è una questione sostanziale, nel senso che la BCE ha come mandato la stabilità dei prezzi. Allora, la definizione di stabilità dei prezzi che la stessa BCE ha dato è quella di rimanere sotto ma vicino al 2%, quindi l'inflazione nell'area dell'euro deve stare al di sotto del 2%, ma questo non vuol dire che la BCE può accettare 0, meno 1, meno 2, sotto ma vicino al 2%. In questo momento siamo lontanissimi dal 2%, siamo addirittura sotto lo 0. Quindi, giustamente, come dicevi, Draghi farà appello al suo mandato esplicito, che tra l'altro è stato fissato quando diciamo l'espiratore, il deus ex machina della BCE era Ottmar Issing, allora capo economista, quindi un uomo proprio Bundesbank fino al midollo, e che di stare sotto ma vicini al 2%, al momento siamo sotto lo zero, quindi siamo lontanissimi dal 2%, no, questo, esatto. E avendo già i tassi a zero la BCE non può far altro a questo punto che stampare moneta. No, perché questo leverebbe acqua dall'acquario dei falchi, l'acquario dei falchi, immagino, diciamo, non certo la Piero Angela, però leverebbe acqua a tutti quelli che dicono attenzione, Draghi sta uscendo dal suo mandato. In realtà no, perché se lui giustificasse questo, come tu ricordavi, per quello che è l'obiettivo che non ha fissato lui ma ha fissato Issing e quindi la Bundesbank, di tenere l'inflazione vicina al 2%, sotto ma vicina, lui potrebbe sostenere sto operando esattamente nell'alveo di quello che ha mandato la Banca Centrale Europea. I tempi, perché oggi Draghi si è tenuto chiaramente dei margini, ha detto valuteremo a inizio anno, ci sarà il consiglio direttivo, i tempi che tu immagini? Il primo consiglio direttivo è per il 22 gennaio, si presume che a questo punto con l'inflazione che è andata sotto zero la BCE difficilmente potrà rinviare ancora. Già a dicembre ci si aspettava che potesse annunciare qualcosa, hanno detto vogliamo vederci più chiaro, aspettiamo di vedere degli altri dati, questi dati sono arrivati, sono tutti negativi, l'economia va male, la disoccupazione resta molto alta nell'Eurozona, che vuol dire che non c'è domanda, l'economia è debole, ma soprattutto appunto l'inflazione è sotto zero. Io credo che oltre il 22 gennaio è difficile che si vada, la riunione successiva è ai primi di marzo, l'unica cosa che potrebbe avvenire che il 22 gennaio la BCE annunci di voler fare questo QE e poi lascia alcuni dettagli da definire alla riunione successiva, anche perché non dimentichiamo che il 25 di gennaio ci saranno le elezioni in Grecia, quindi la questione, per esempio, se includere negli acquisti anche i titoli greci è abbastanza spinoso, soprattutto tre giorni dal voto e soprattutto con l'aria che tira in Grecia, quindi alcune decisioni, diciamo, sulle modalità potrebbero essere poi demandate sicuramente per quello che riguarda la Grecia e forse anche altro alla riunione dei primi di marzo, che tra l'altro si svolgerà a Cipro, però credo che il 22 gennaio sia a questo punto inevitabile che Draghi annunci qualcosa, anche perché diversamente ci sarebbe un contraccolpo sui mercati abbastanza violento e a questo punto invece di un allentamento si otterrebbe un irrigidimento della politica monetaria. Ecco, da questo punto di vista ci chiedono molti ascoltatori, attenzione, Draghi non ha detto che comprerà titoli italiani. Certo, non può dire che comprerà nessun titolo di uno specifico paese, né ha detto che comprerà solo titoli sovrani, l'acquisto di vari asset tra cui titoli sovrani. Come potrebbe funzionare, da quello che tu hai capito, una volta arrivato il via libera, l'acquisto di titoli? Cioè si va a vedere paese per paese, e questo può includere anche la Germania, e soprattutto con che tipo, diciamo, di modalità, per quello che si è capito? Allora, le modalità ancora non sono state definite, c'è stata una riunione di consiglio ieri, ma da quello che mi risulta da diverse fonti ancora non è stata presa alcuna decisione finale. Perché si dice che potrebbe acquistare altri titoli? Perché è possibile che la BCE includa per esempio anche le obbligazioni societarie, però bancari. È chiaro che c'è una sola asset class, cioè c'è un solo genere di attività finanziarie che ha i volumi sufficienti ad espandere il bilancio della BCE in modo che questo possa avere qualche effetto sull'inflazione. Questo sono i titoli di Stato. Come procederà la BCE è ancora da definire. L'ipotesi, diciamo, più normale, più classica, sarebbe che la BCE procedesse acquistando titoli in una percentuale corrispondente alle quote dei vari paesi nel capitale della BCE, quindi l'acquisto più grosso sarebbe i titoli tedeschi, poi francesi, poi italiani, spagnoli, eccetera. Questa è un'ipotesi, però c'è chi dice in questo modo la BCE si assumerebbe troppo rischio, ci vogliono dei sistemi, diciamo, per moderare questo rischio. Allora Weidmann ha proposto per esempio che si possano acquistare soli i titoli di paesi che hanno la tripla A, però il numero si restringerebbe veramente molto, perché si parla della Germania, della Francia e di altri due o tre paesi molto piccoli, quindi si creerebbe una sorta di due velocità nei mercati dei titoli di Stato. Anche lì si rischierebbe l'effetto un contraccolpo contrario. A maggior ragione un contraccolpo si avrebbe se si procedesse con un'altra ipotesi, anche questa suggerita da Weidmann, cioè che ogni banca centrale si compri i titoli del proprio paese e se li tenga in bilancio assumendosene il rischio. A quel punto però gli operatori, gli investitori potrebbero dire: ma se la BCE, nemmeno la BCE vuole assumersi i rischi, certo, dei titoli italiani, spagnoli, portoghesi, perché dovrei assumermelo io? Quindi a quel punto lì si potrebbe pensare che si avrebbero delle vendite sui titoli italiani, quindi un aumento degli spread e, come si diceva prima, un irrigidimento della politica monetaria per quello che riguarda l'Italia, invece che un allentamento, che è quello che si sta cercando. Sì, sono d'accordo, anche perché procedere solo per la prima ipotesi o la seconda ipotesi, solo quello con la tripla A, cioè Weidmann non deve fare furbo con noi, perché è chiaro che quello è un modo per aggirare il vero portato del quantitative easing. Se guardiamo l'esempio americano o statunitense, per meglio dire, e giapponese, tu vai a fare l'acquisto di titoli di Stato per stampare moneta, per aiutare l'economia e mettere in circolo liquidità, non vai a farlo per comprarti solo titoli della tripla A e avere dei buoni titoli in portafoglio, perché sennò te ne stai fermo e basta. Cioè, voglio dire, è chiaramente un assurdo. Non è che la Federal Reserve si sia messa a comprare debito solo degli stati americani messi meglio, non so come dire, cioè, è tutto un altro la logica. Molti chiedono però il vantaggio, perché è chiaro che le banche si entusiasmano in borsa perché sono pieni di stati italiani, ma il vantaggio sull'economia, detto in maniera molto semplice, quale sarebbe, Alessandro? Beh, la BCE comprerebbe non solo dalle banche ma anche da altri detentori di titoli di Stato, quindi in qualche modo se la BCE compra deve pagare questi titoli, quindi mette in circolazione della moneta che diversamente non circolerebbe, per cui chiunque venda titoli alla BCE, che sia fatto attraverso le banche o no, in qualche modo entra nella disponibilità diciamo di moneta che prima non aveva, che prima l'aveva bloccata in questi titoli di Stato. Non solo, ma gli investitori, avendo venduto titoli di Stato, si rivolgeranno ad altre attività finanziarie o no, si presume che acquistino per esempio obbligazioni societarie, o che acquistino azioni o che acquistino immobili, certo. Quindi sono tutta una serie di attività che creerebbero diciamo un po' un effetto ricchezza, c'è questo ribilanciamento del portafoglio verso attività più rischiose e quindi questo avrebbe un effetto positivo. Non solo, ma si dice i tassi sono già molto bassi, è vero, i tassi sono bassissimi, ma in alcuni paesi non sono così bassi, in Italia e in Spagna certo sono bassi i tassi sui titoli di Stato, ma non quelli praticati alla clientela, diciamo. Ecco, esatto, quindi questo spostamento verso attività più rischiose porterebbe anche a una compressione di questi, certo, di questi tassi, e quindi con vantaggi per diversi strati o diversi settori dell'economia che dipendono appunto dall'andamento dei tassi di interesse. Allora, qualcuno dice, ma attenzione perché la deflazione è temporanea dovuta al calo dei prezzi dei prodotti petroliferi. No, questa è la versione che ha dato in maniera un po' pasticciata ieri la Commissione Europea. Non vuol dire nulla, perché nel senso che è ovvio che tu vai in deflazione a novembre perché il prezzo del petrolio ha perso il 50% negli ultimi 4 mesi, da settembre in poi. Però, come spiegavamo ieri, questo calo del prezzo del petrolio, dei suoi derivati, e quindi il calo di quella che si chiama inflazione importata, va a innestarsi su già una inflazione quasi assente dovuta alla frenata dell'economia dell'area euro, quindi al crollo, calo dei consumi. Se non avessi avuto questo, avresti avuto un'inflazione magari allo 0,8, magari all'1, ma non saresti andato in deflazione. Quindi sì, c'è l'effetto temporaneo dei prezzi, ma non è dei prezzi del petrolio, ma non è quello che spiega i livelli bassi, bassissimi di inflazione, e appunto che poi diventano al primo calo del petrolio deflazione. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Francoforte. Parte del Focus Economia, la Svizzera, perché si avvicina alla firma dell'accordo fiscale Italia-Svizzera, se ne parla da più di un anno, mancano ancora alcuni dettagli da limare, ma si dovrebbe essere vicini. Allora, l'accordo si dovrebbe siglare entro i termini previsti dalla voluntary disclosure, quindi il 2 marzo, ma potrebbe essere già il 15 gennaio la data di un accordo di massima e una firma ufficiale arrivare all'inizio di febbraio. In ogni caso tutto il processo sarà chiuso appunto entro l'inizio di marzo, perché questo è il termine fissato dal provvedimento sul rientro dei capitali per i paesi nella lista nera, nella blacklist. Ed è il limite di tempo che hanno questi paesi per fare gli accordi fiscali con l'Italia ed essere quindi considerati paesi della white list, della lista bianca, ai fini dell'emersione dei fondi illegalmente nascosti oltre confini. È la Svizzera stessa a tenerci a questo accordo, perché una volta uscita dalla lista nera le sue imprese, a cominciare dalle multinazionali e dalle banche, avrebbero più facilità a operare in Italia. È ovvio che c'è un vantaggio anche per l'Italia, che spera per questa via di recuperare risorse ingenti, miliardari. Si stima che siano i depositi di italiani aperti presso le banche svizzere siano circa 10.000, per un patrimonio complessivo pari a circa 130-150 miliardi di euro. Gli svizzeri parlano di meno di 100 miliardi. Comunque, Giovanni Parente del Sole 24 Ore, si avvicini all'accordo e quanto spera di incassare lo Stato italiano? Buonasera Giovanni. Ciao, buonasera. Allora, l'accordo stavolta sembra veramente destinato a essere siglato, come dicevi tu giustamente nel promo. Che cosa vuol dire? Cioè, ci sono almeno due ordini di ragioni che inducono a pensare che stavolta si farà davvero. C'è la scadenza del 2 marzo, che viene fissata la legge sul rientro dei capitali per poter in qualche modo entrare in una lista dei buoni che dà diritto a degli sconti sulle sanzioni che verranno applicate per chi deciderà di aderire alla procedura appunto di voluntary disclosure, e c'è da un altro lato una forte spinta a un'esigenza di far cassa appunto del nostro Stato, perché nel decreto milleproroghe di fine anno di fatto è stato chiesto un prestito alla voluntary disclosure, perché dovrà portare 671 milioni di euro già entro quest'anno, altrimenti si riproporrà quello che è già successo negli ultimi due anni, quindi a conti maggiorati delle imposte da versare in autunno per le imprese e i contribuenti italiani, e addirittura quello che voleva essere evitato a inizio anno, cioè un ulteriore aumento delle accise sui carburanti, scatterebbe invece dal 1 gennaio 2016. Questo accordo appunto ha ancora dei dettagli da definire, perciò si diceva appunto che il 15 gennaio dovrebbe essere un po' una data cruciale. Questi giorni che ci separano dal 15 gennaio serviranno a limare dei dettagli, perché non c'è soltanto appunto la parte dello scambio di informazioni, che è quello poi il cuore dell'intesa, ma c'è anche la parte legata alla tassazione dei cosiddetti transfrontalieri, cioè vuol dire quelli che gli italiani che lavorano in Svizzera, e poi alla possibilità di operare all'interno del nostro paese degli intermediari finanziari svizzeri appunto. Certo. E quindi bisogna un attimino insomma definire questi dettagli, perché anche sulla questione trasfrontaliera cioè, ovviamente ci sono in ballo c'è in ballo del gettito, e questo dovrebbe portare insomma poi a definire un'intesa che dovrebbe essere poi in qualche modo stilata, messa nero su bianco e firmata entro febbraio. Ricordiamo che insomma le technicality di questo accordo fanno sì che non dovrebbe poi trattarsi di un accordo che passi da una legge di ratifica, perché tecnicamente non ci sarebbe il tempo per il nostro Parlamento di votarla, quindi dovrebbe valere l'intesa in qualche modo sottoscritta fra i due governi e poi passare ad una legge di ratifica nel corso dei prossimi mesi. Questo sarebbe indispensabile, altrimenti la scadenza del 2 marzo non riuscirebbe ad essere rispettata. Naturalmente le stime sono tante sui capitali illegittimamente esportati in Svizzera. Che cosa succede? Cioè, le speranze di portarle di portarli tutti in Italia insomma non ci sono, perché ad esempio le operazioni di scudi fiscali degli anni di inizio anni 2000 non hanno dato poi insomma questi risultati, poi alla fine hanno anche prodotto un controeffetto di esportazione, almeno dalle statistiche della Banca d'Italia, e però insomma stavolta c'è una grande minaccia, l'autoriciclaggio. Sì, perché la voluntary disclosure dice sostanzialmente che chi decide di far emergere i capitali esportati oltre Alpe avrà uno sconto sulle sanzioni amministrative dei reati penali, ma dovrà pagare per intero le tasse. Esatto. Per i patrimoni leciti, come invece le vecchie eredità, i patrimoni di professionisti, gli utili societari sottratti al fisco italiano, in particolare la sanzione prevede il pagamento delle imposte sui rendimenti per ogni anno di permanenza all'estero, oltre alle sanzioni e agli interessi per il ritardato pagamento e alle sanzioni per la mancata comunicazione nella dichiarazione dei redditi. Però una volta emersi, chi vorrà potrà mantenere i capitali in Svizzera, dovrà comunque continuare a pagare le tasse in Italia. Attenzione, qui è la parte a cui tu facevi riferimento, che una volta che si esaurisce la finestra per il voluntary disclosure, chi non avrà accettato correrà invece rischi penali e dovrà portare questi capitali nei paradisi fiscali, perché accordo dopo accordo il numero dei paradisi fiscali si sta restringendo, quindi vai direttamente nel penale. Ecco perché per la data del 2 marzo è una data fondamentale. Grazie intanto Giovanni Parente del Sole 24 Ore, anche per la parte che riguarda la Svizzera. Vedremo, ma ripeto, da quello che si capisce, che raccontava anche Parente, ormai dovrebbe essere questione di settimane, forse anche meno, forse anche giorni. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.